Tuttavia, il problema non è in cima ai loro pensieri, non è la loro priorità. In questo momento non ho un progetto per un seguito, ma aggiorno continuamente il libro. Guerre dipendenti è stato pubblicato nel 92 e poi aggiornato per ogni guerra, dopo quella in Afghanistan, dopo quella in Iraq. Lo aggiornerò se ci saranno altri cambiamenti, se ad esempio gli Stati Uniti invaderanno l'Iran o se ci saranno sviluppi importanti in Iraq. Mi piacerebbe fare altri fumetti, ma non ho il tempo, sono molto coinvolto dalla vita accademica. Se potessi, comunque scriverei un libro sul presidente degli Stati Uniti. La posizione dominante degli Stati Uniti, che dura dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ed è cresciuta con il crollo dell'Unione Sovietica, ora è instabile. Il primato americano è in declino anche dal punto di vista economico, mentre gli altri stati contano sempre di più. Quel che è certo è che le altre nazioni non devono più seguire gli Stati Uniti le loro avventure militari. Uno dei conflitti che si trascina in modo apparentemente inarrestabile è sicuramente quello israeliano-palestinese. Anche su questo la Graphic Journalism si è cimentata e Stefania Sarallo ci consiglia 4 fumetti di qualità sull'argomento. Dei graphic novel contribuire alla comprensione di un conflitto così lungo e complesso come quello israelo-palestinese? Certamente sì, tanto più grazie alla sempre maggiore diffusione negli ultimi anni del graphic journalism. I disegni infatti rendono immediatamente accessibile a chiunque il racconto di ciò che avviene in una delle aree più calde del pianeta. Molti sono gli artisti che si sono cimentati in questa impresa, vediamone qualcuno. Gio Sacco, maestro indiscusso del giornalismo a fumetti, è autore di quello che è ormai un classico del genere, Palestina, una nazione occupata, edito da Mondadori. La sua è un'inchiesta sulla vita nei territori occupati palestinesi, condotta tra il 1991 e il 1992, sul finire della prima intifada, in un momento decisivo del conflitto. Sacco sospende qualsiasi giudizio critico, lascia che a parlare siano le storie di vita, le testimonianze raccolte, con la consapevolezza e l'onestà intellettuale del giornalista che tuttavia sa di non poter essere imparziale, essendo egli stesso parte della storia e protagonista in quanto testimone diretto. Kid Elisle, fumettista canadese, è considerato insieme a Gio Sacco uno dei massimi rappresentanti del graphic journalism. In Cronache di Gerusalemme, edito da Rizzoli Lizard, ci racconta la quotidianità di una Gerusalemme che è molto lontana da quella che viene propagandata dalle guide turistiche, fatte di conflitti, contrasti, checkpoint, frontiere. Con il suo stile minimale e la potenza espressiva che caratterizza il suo disegno, ci narra le piccole storie di vita quotidiana che si intrecciano con la geopolitica. Di tenore molto diverso è Capire Israele in 60 giorni, della giovane fumettista americana di origine ebraica Sarah Glidden, edito anch'esso da Rizzoli Lizard. E il suo è un racconto completamente diverso, intimo, personale, narra infatti la storia del suo primo viaggio in Israele. Con un'ironia pungente, una curiosità scettica, rarerà un viaggio che metterà profondamente in discussione le sue certezze e che la segnerà profondamente. Shalom Homri Salam Ziad, l'ultimo fumetto che vi consiglio, è un fumetto destinato invece ai più piccoli, che ha per protagonista dei bambini. L'opera di Manuel Adviri, illustrata da Staino, parla di un bambino israeliano e l'altro palestinese, della loro storia di amicizia nata all'interno di un ospedale. Un racconto quindi pieno di speranza per la costruzione di un futuro di pace. Quattro artisti diversi, quattro personalità e quattro punti di vista sul Medio Oriente, ognuno dei quali contribuisce a determinare un tassello, a fornire dei dettagli per crearsi un'opinione più concreta sul conflitto. A questo punto la parola a Gio Sacco in questa intervista curata da Mark Daniels. Nel gennaio 2006 il corrispondente di guerra Gio Sacco è arrivato a Baghdad al seguito dei Marines americani. La cronaca di ciò che ha visto è in un fumetto di 8 pagine distribuito dai quotidiani di tutto il mondo. Gio Sacco è un giornalista a fumetti. I fumetti sono diventati un mezzo per raccontare guerre, rivoluzioni, genocidi. Soggettivi e artificiali, come tutti i disegni, riescono tuttavia a comunicare la verità delle situazioni umane più terribili. Che cos'è un giornalista a fumetti? Il primo libro di Gio Sacco, Palestina, ha lanciato questo genere nel 1992. È un fumetto che racconta violenza e oppressione. È una riflessione sulle responsabilità del reporter nei confronti dei lettori e della realtà. Ero come ossessionato da quello che succedeva nei territori occupati. Vivevo a Berlino e disegnavo locandine rock e ogni tanto fumetti. A un certo punto ho pensato, perché non andare sul posto e raccontare la mia esperienza? Quando sono arrivato lì, qualcosa è cambiato e anziché scrivere delle mie esperienze personali, ho iniziato ad intervistare la gente, raccogliere informazioni e a fare il giornalista. Quando sono arrivato, non avevo alcuna esperienza di quel genere di cose e temevo di non essere all'altezza. Non sapevo niente. Non avevo idea di cosa stessi facendo. Era una specie di tentativo. Per la verità, avevo paura. Ero spaventato quando non ce n'era bisogno. Non lo ero quando invece avrei dovuto. Ho capito l'importanza di inserire me stesso nei disegni per quello che la mia figura rappresentava. Una sorta di pronome personale io che si aggirava sulle scene. In questo modo si vedono le cose attraverso il mio punto di vista. E il lettore deve saperlo comprendere. Non mi considero un cronista di guerra, forse qualche volta ho riportato la cronaca di quei luoghi, ma comunque sono un fumettista. Sacco può essere stato il primo, ma non è certo l'unico. Oggi i fumettisti si trovano in ogni parte del mondo per raccontare le guerre e le proprie esperienze. Come your masters of war, here they build the big guns. Here they build the death planes. Yeah, that build all the bombs. Yeah, that hide behind walls. Yeah, that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Abbiamo visto che il fumetto serve per rendere accessibile a un pubblico più largo, spesso anche molto giovane, le terribili notizie della guerra. A volte però succede anche il contrario, sono i ragazzi che diventano la spinta per la produzione di un lavoro a fumetti. È il caso dei Colori di una nuova vita, un fumetto scritto dai ragazzi per i ragazzi promosso da una selezione di Emergency, una bandiera davvero di pace, e la casa editrice Tournoé, che ha lavorato con tre giovani autori, la giornalista Laura Silvia Battaglia, lo sceneggiatore Federico Mazzoni e la scrittrice Arianna Giorgia Bonazzi. Ce ne parla di questo fumetto proprio lo sceneggiatore Federico Mazzoni. Un libro a fumetti, per cui sì, l'oggetto fisico è quello di un libro, però è un medium diverso da quello del romanzo, è un medium diverso da quello del racconto, è un medium che unisce le parole alle immagini e questa unione crea un qualcosa di unico. Nella fase di realizzazione è stato importante dare molto spazio a entrambi gli elementi che ho citato attraverso la sceneggiatura, che è effettivamente un documento tecnico che lo sceneggiatore scrive e viene consegnato poi ai disegnatori con tutte le descrizioni di tutte le singole vignette e i dialoghi di tutto ciò che i personaggi dicono. Prima della sceneggiatura però chiaramente lo sceneggiatore ha dovuto studiarsi molto bene quello che i ragazzi avevano mandato. Noi abbiamo ricevuto oltre 150 sinossi. Di queste 150 sinossi ci siamo chieste quali fossero quelle che riuscivano a tirare fuori il meglio dei tre personaggi, Rashida, Goran e Amal, attraverso le loro caratteristiche proprie. Noi abbiamo immaginato Rashida come una ragazza che amasse molto la corsa e la musica rap. Abbiamo immaginato Goran come un ragazzino molto fantasioso che amasse molto disegnare, avesse questa incredibile passione per il disegno con cui riuscire a tirarsi su nei momenti più difficili. E abbiamo immaginato Amal come una ragazza dal passato travagliato che per una serie di motivi si trova costretta a affrontare il viaggio non come Amal, non come lei stessa, ma come Amir, come un uomo, perché ha paura di mostrare la sua vera identità di donna. Di conseguenza abbiamo scelto le sinossi che riuscissero a tirare fuori il meglio di questi elementi. Faccio un esempio su Goran. Goran è un ragazzino che ama disegnare e ci ha colpito molto una storia in cui Goran si trovava da solo in un camion che lo stava portando lontano dal suo paese natale. E Goran riusciva a vincere questa solitudine proprio grazie al disegno, proprio immaginando tutto il suo passato e disegnandolo. E questi disegni a un certo punto uscivano nella sinossi che c'era stata inviata dai ragazzi dall'album da disegno e si animavano intorno a lui, che è un'immagine potentissima, perché al tempo stesso ci ricorda che quello di cui stiamo raccontando la storia è un ragazzino, è una persona che nel tempo libero disegna, che dal disegno trova la forza, ma è un ragazzino che si trova in una situazione critica, si trova da solo, lontano da tutti, in un camion buio, oscuro, e riesce a trovare la luce in questa oscurità proprio grazie alle sue doti di ragazzo. Lo stesso è successo con Rashida. Rashida è una ragazza che ama correre, come dicevo prima, e correndo nel deserto si allontana sempre di più dal mondo reale, entrando in una dimensione onirica, immaginando questo cammello, questo suo amico immaginario, il cammello Luigi, come una sorta di guida in un mondo che non conosce, in un mondo reale abitato da beduini malvagi che vogliono solo sfruttarla e non hanno alcun interesse a farla giungere in Italia. Amal invece riesce alla fine di tutto a trovare finalmente una propria dimensione come donna, proprio reincontrando in Italia Rashida e instaurando con lei una forte sorellanza. Ecco, questi elementi ci hanno molto colpito, perché ci hanno mostrato delle storie che avevano già delle immagini incredibilmente forti, e quindi per me, in quanto sceneggiatore, si è solo trattato di prendere queste immagini che erano già state comunicate dai ragazzi e inserirli in un contesto narrativo più ampio, unendo fra loro i trentini. In questo contesto è stata molto importante la storia di cui abbiamo le ragazze e l'insegnante insieme per casa, amici per scelta, perché era una storia di gruppo che ci mostrava il rapporto molto forte fra Goran e Amal, che si incontravano e diventavano quindi amici. E ci siamo allora chiesti, ma perché non usare quest'idea, l'idea che i ragazzi, i protagonisti di queste diverse storie si possono incontrare, non per realizzare quattro diverse storie a fumetti, ma un'unica grande storia a fumetti dipanata in quattro diversi capitoli. E così abbiamo fatto. Di conseguenza ci siamo trovati a portare alcuni elementi, magari provenienti dalla sinossi di una storia di Goran, un pochino accennandoli già in una storia di Rashida o in una storia di Amal. Da questo punto di vista è stato quindi molto importante la creazione del personaggio di Omar, che è questo omaccione grande e grosso che veniva accennato in una delle storie di Goran. Lì veniva semplicemente descritto come un omaccione burbero ma dalla voce suadente. Allora noi ci siamo chiesti, ma questo personaggio è interessante, l'immagine di una persona che dall'esterno possa sembrare paurosa ma in realtà è amico di questi ragazzi? E allora l'abbiamo, partendo proprio da questo spunto che era già in una delle sinossi arrivate dai ragazzi, abbiamo elevato questa mia descrizione al personaggio ed è quindi effettivamente diventato uno effettivamente dei coprotagonisti. Qualcosa di simile è successo sempre da una storia di Goran con il cosiddetto uomo lampadina, un trafficante di uomini malvagio che abbiamo deciso di rendere avversario anche di una delle storie di Amal. Quindi alla fine noi ci siamo trovati sostanzialmente con quattro storie che ognuna chiaramente un inizio, uno sviluppo e una fine, e da ciascuna storia poi ne segue un'altra, poi ne segue un'altra, poi ne segue un'altra, e arriviamo alla fine del libro, della graphic novel, con tutti questi quattro protagonisti, Amal, Rashida, Goran e Omar, arrivati in Italia e pronti ad affrontare una nuova vita. Infatti, alla fine di tutta la graphic novel, abbiamo inserito un mini epilogo in cui mostriamo i personaggi cresciuti e questa speriamo possa essere per i lettori la base per immaginare un possibile futuro di questi personaggi in Italia. C'è anche un oggetto che fa da fil rouge in tutta questa storia. Un oggetto... cellulare. Il cellulare è un oggetto che davvero per un migrante rappresenta tutto, rappresenta l'unica possibilità che ha per contattare la famiglia di origine, il suo paese natale, rappresenta magari, se si disperde dal gruppo dei migranti, la possibilità di contattare i suoi compagni di viaggio. Quando qualcuno arriva in Italia, arriva sempre con un cellulare, non perché sia ricco sfondato e ci abbia il cellulare ultimo modello, no, arriva in Italia con un cellulare perché quello rappresenta il suo unico contatto con il resto del mondo. Al tempo stesso il cellulare è qualcosa di molto attuale, che i ragazzi conoscono benissimo, e quindi utilizzare questo cellulare è elemento simbolo del graphic novel, come mezzo di contatto fra gli stessi protagonisti, perché se lo passano tutti e tre a mo' di staffetta, è rappresentato un modo di portare vicino al mondo dei ragazzi di oggi, al target di questo fumetto, ai ragazzi delle scuole medie, un mondo che apparentemente poteva sembrare lontano, che è quello delle migrazioni.